24 mattino, estate, di Gigi Donelli. Giovedì 16 agosto, sono le 7 e 16 minuti in questo istante. Un buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio 24. Un saluto da Gigi Donelli al microfono, da Carmelo Lauricella laggiù dietro il vetro in regia. Dunque, 16 agosto, la boa al passaggio di questo Ferragosto 2012 dunque passato. Ieri avrete visto, insomma, una giornata complessivamente serena, positiva, nel senso anche meteo, una giornata di festa come doveva essere, con spiagge affollate per un giorno quasi, diciamo, un Ferragosto uguale a se stesso in un contesto di assoluta normalità. Ecco, tutto questo in un anno in cui tante volte abbiamo detto però molte cose sono cambiate nella vita quotidiana, nei comportamenti, nei consumi, e proprio di questo noi andremo a parlare a partire dalle 8:20 con un nostro ospite che è un sociologo dei consumi e che a cui chiederemo in pratica di riflettere su quello che è il Ferragosto 2012 e quello che sarà, insomma, l'anno che verrà in qualche modo. Anche questo è uno dei passaggi obbligati, passaggi canonici del nostro calendario. Già si avvicinano in qualche modo delle altre responsabilità, degli altri appuntamenti che riguardano il ritorno, dunque le preoccupazioni nel mondo del lavoro, ma anche la scuola naturalmente. Ieri ne abbiamo parlato a lungo anche con i nostri ospiti dall'Emilia, quindi chi fa i conti con la ricostruzione, chi con semplicemente tra virgolette con la ripresa di un anno scolastico, insomma la svolta di Ferragosto, quale paese andiamo a vivere con il ritorno e la fine delle vacanze. Sarà questo uno dei temi che affrontiamo oggi con i nostri ospiti. Poi a partire dalle 8:30 avremo invece un percorso, qualche tappa nell'Italia di queste giornate che ci porterà nelle città. Abbiamo parlato a lungo di quanto quest'anno più che mai le città siano state di nuovo al centro delle feste, delle vacanze, e come abbiano offerto davvero tante possibilità anche aggiuntive. Da una parte sicuramente la fine di quel grande vuoto, di quell'esodo un po' inquietante che faceva parte dei costumi degli anni passati. Poi però andremo anche in località più piccole, andremo al Giglio, andremo dalle parti di Rimini, insomma un percorso per questa estate 2012. Comunque ancora è vero, io da una parte mi proietto già sul rientro, dall'altra siamo nel pieno del mese di agosto. Bene, tutto questo a partire dalle 8:20 circa. Adesso vediamo un po' che cosa offre questa mattina l'edicola. Ecco, innanzitutto, come sapete, 16 di agosto, giornata senza quotidiani, giornata senza quotidiani che ci porta inevitabilmente a un percorso attraverso l'attività dell'editoria digitale, che è attiva, che è stata attiva nella giornata di ieri. E allora cominciamo oggi, facciamo una lettura di quella che è l'offerta dei principali siti. Ne trovate ovviamente molti, trovate i siti generalisti, trovate poi quelli che è sempre un aspetto affascinante del mercato digitale, appunto la possibilità di muoversi rapidamente al di fuori dei nostri confini. Ma cominciamo allora in un ambito nazionale, poi vediamo di dare un'occhiata anche a cosa succede intorno a noi. Allora, il Sole 24 Ore di questa mattina, il sole24ore.com ovviamente, che da un lato porta nel tema della spending review. La spending review lavora a Ferragosto, parte la stretta sugli affitti della pubblica amministrazione e gli sconti sui farmaci, quindi la revisione della spesa sempre al centro

8:20 minuti, ancora un buongiorno, un saluto da Gigi Donelli questa mattina al microfono, da Carmelo Lauricella in regia, da Alessandro Longoni in assistenza questa mattina. Insomma, il giorno dopo il Ferragosto di crisi con le città che si svuotano, così come sceglie di titolare questa mattina ansa.it, almeno per un giorno le città sono quasi deserte, le spiagge si riempiono. Insomma, una sorta di ritorno alla normalità, o almeno a quello che in passato era la normalità, con un'immagine, quasi uno still frame, un fermo immagine di un'Italia in vacanza, un'immagine incastrata all'interno di un'estate particolare, diversa, di cambiamenti che non sono quelli di oggi, ma che sicuramente in questa estate abbiamo avvertito in maniera più netta, più chiara. E proprio per, come dire, illuminare alcuni degli aspetti, capire un po' che cosa non tornerà più e che cosa invece magari è solo effetto di un passaggio temporaneo, abbiamo un ospite, un sociologo, esperto di sociologia dei consumi, presidente di Astra Ricerche, Enrico Finzi. Buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, Ferragosto di crisi, ma le città si svuotano. Insomma, Ferragosto per molti versi non è il momento ideale per fare diciamo una riflessione, nel senso che almeno a Ferragosto certi comportamenti sono quelli del passato. Oppure no, anche in questo Ferragosto lei ha visto elementi di riflessione? Partiamo dai dati. Il primo di luglio, come ogni inizio di luglio di ogni anno, noi abbiamo chiesto a un campione rappresentativo di italiani di dirci che cosa pensavano di fare appunto a luglio e ad agosto, i due mesi cruciali delle ferie cosiddette estive. È inutile nascondersi dietro un dito, la crisi quest'anno pesa davvero in maniera drammatica. Pensi che fare vacanze, il che vuol dire almeno 3 giorni di pernottamento fuori casa, era l'abitudine del 54% degli italiani per quel che riguarda luglio e agosto. Il primo luglio abbiamo avuto un tracollo, solo il 39% ci ha detto quest'anno prenderò 4 o più giorni di vacanza. Di solito queste previsioni che la gente fa su se stessa vengono confermate. Quindi la prima informazione è che la crisi è obiettivamente molto grave e che è esplosa quest'anno. Fino all'anno scorso la tenuta, come si dice, era discreta. Ecco, fino allo scorso anno la sensazione è che appunto si tenesse aspettando, magari consumando un po' le riserve, le scorte. Quest'anno lei invece dice c'è stata proprio una programmazione, le persone hanno quasi aperto gli occhi rispetto alla complessità, dicendo bene, si riducono i consumi. Sì, i motivi sono diversi. Innanzitutto va detto che non tutti quelli che non hanno fatto vacanze di almeno 4 giorni in questo bimestre non le fanno nel corso dell'anno. Alcuni spostano o le hanno già spostate le vacanze a periodi di minore affollamento e di prezzi più bassi. Altri fanno vacanze ma, come si dice, low cost o lower cost, per esempio per meno giorni, andando in una pensione che costa meno, tagliando sui gelati e sui vari divertimenti, eccetera, eccetera. E molto tornando a valorizzare familiari e amici che offrono la casa gratis. Ci sono dei ritorni sospetti di amore per vecchie zie, per il paese d'origine, eccetera. Quanto tempo che non vedo la vecchia zia, che è una bellissima casa vista appunto mare. È la bellissima casa vista mare che naturalmente è oggetto del desiderio. Quindi in parte non c'è rinuncia, ma c'è una diminuzione, in inglese un downgrading, una discesa di 1 o 2 scalini. In parte c'è la vera e propria rinuncia, e in parte è legata al non ho più soldi, in parte è legata al fatto che, come lei diceva, essendoci preoccupazioni circa il futuro, il risparmio diventa un concorrente del consumo, cioè la gente dice potrei anche permettermelo, la gente, 4 milioni di persone dicono potrei anche permetterlo, ma preferisco tenere il fieno in cascina, come dicevano i contadini, perché quest'inverno potrebbe essere molto duro. E siccome i risparmi sono stati largamente intaccati negli anni scorsi, sia per divertirsi, sia per finanziare i figli che non trovano lavoro, per tanti altri motivi, adesso si mira, seppure faticosamente, a ricostituirli e quindi si consuma meno. La situazione è negativa, non catastrofica, e poi, come sempre succede, nei giorni di Ferragosto scatta un meccanismo che è di autoprotezione anche psicologica dalla depressione, e dice va bene, 3 giorni li prendo comunque, anche se magari al sondaggio all'inizio di luglio avevo detto che non lo avrei fatto. Insomma, almeno fa un po' Ferragosto, uno dice. Valvola di sfogo, insomma, della pentola a pressione, però la pressione è forte. Ecco, la pressione è decisamente forte, è forte anche, a suo avviso, una reale riflessione sul cambiamento dei costumi. Mi spiego, oggi per esempio aprendo Panorama in edicola leggo: estate, non è più qui la festa, nell'era dei professori della sobrietà imperante anche la stagione calda diventa fredda. Prima cosa citata, primo elemento che misura le difficoltà di questi tempi è No Matusalem. A Porto Cervo non è stata stappata alla data del 7 agosto nemmeno una bottiglia da 6 litri di champagne. Ora, mi rendo conto che anche questo fa parte, del panorama complessivo, che Porto Cervo con il suo turismo di lusso rappresenta un indotto importante. D'altra parte, un certo approccio sobrio personalmente non mi dà nessun fastidio. Non è che anche gli italiani stiano cominciando un po' a fare dei distinguo sistematici rispetto allo spendere per la vacanza, alla modalità di farlo, insomma una riconsiderazione delle priorità? Sì, sicuramente questo c'è. Quello che mia nonna chiamava lo spendere e spandere, il consumismo, lo sbattere via i soldi, l'ostentazione non è più trendy anche per i gruppi sociali privilegiati. Tenga conto che in certe località di villeggiatura c'è anche il timore del fisco, dei RAIS, dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, eccetera, eccetera. Sicuramente stiamo rivedendo il nostro modello di consumo, per usare i paroloni di noi sociologi. È finita la lunga fase, più di 50 anni, di rivoluzione delle aspettative crescenti. L'ipotesi che quasi tutti facevamo noi italiani, che ogni anno tutti o quasi tutti saremmo stati meglio. E siamo entrati in una fase di aspettative decrescenti, in cui si riducono le aspettative, si hanno meno pretese, sempre per usare un termine ottocentesco come mia nonna, e in qualche modo si selezionano di più le cose, non di tutto, per dirla nell'inglese obbligatorio del marketing, magari less but better, meno ma tenendo duro sulla qualità, perché per gli italiani perdere qualità è fonte di molto maggiore sofferenza che ridurre quantitativamente i consumi. Quindi sicuramente quello che dice è vero, anche nella vacanza c'è un momento di selettività, il colino si è fatto a buchi più stretti. Ecco, vacanza per l'Italia vuol dire anche industria del turismo, naturalmente ne parliamo a lungo d'estate, ma non solamente, insomma per noi non è solo la vacanza che viviamo ma quella che offriamo e che dunque ci permette anche di sostenere il PIL. Oggi, circa mezz'ora fa, ho letto una notizia di quelle abbastanza agghiaccianti dal Messaggero di Roma, di una turista giapponese costretta a gattonare perché doveva uscire, perché è bloccata su una carrozzina e senza uscita di sicurezza. L'Italia però è anche quella che per esempio viene rappresentata sempre oggi da Newsweek tra le grandi 10 mete del nostro pianeta, i luoghi da non perdere, insomma lo sappiamo. Secondo lei c'è qualche speranza che da un lato appunto non ci sia un tracollo nella depressione, che questa discesa e queste difficoltà non ci buttino tutti a terra intesi come paese e che poi ci permettano di apprezzare e rivalutare anche la nostra capacità di presentarsi all'estero? I fenomeni sono due: l'attrattività dell'Italia per i turisti inbound, quelli che arrivano da noi, i turisti stranieri, resta molto elevata e addirittura in taluni casi è cresciuta. Ho fatto per esempio una ricerca per alcuni comuni del nord-est che avevano perso clientela bavarese, austriaca, eccetera eccetera, che era finita nei paradisi dell'ex Jugoslavia, meno costosi eccetera. C'è stato un fenomeno di ritorno per cui tra l'altro la crisi greca e anche quella spagnola paradossalmente quest'anno ci avvantaggiano. Quindi l'Italia tiene duro, tiene botta, resiste bene e continua ad essere un luogo con dei limiti di organizzazione dell'ospitalità, ma comunque molto amato, perché tra natura, arte, alimentazione e popolo l'offerta è enorme nell'insieme. Diverso è il discorso per quello che riguarda noi, il turismo italiano in Italia è in calo, tenga conto che c'è anche la concorrenza del low cost estero, cioè una volta andare all'estero costava molto, pensi al viaggio aereo, oggi può essere più conveniente andare sul Mar Rosso che in Salento, certo, per il nord, per intenderci. Comunque il turismo italiano è in calo, anche drammaticamente in alcune regioni, lo segnalano tutte le organizzazioni di settore, ma nel contempo gli stranieri, compreso quelli tradizionali a partire dai tedeschi, danno una grossa mano, sono in incremento. Più o meno, evitando gli allarmismi, si può dire meno 15% di turismo italiano, più 5-6% di turismo straniero, il che è positivo. Non solo, noi non siamo bravissimi nel fare, come spesso vi sento dire giustamente, industria del turismo, cioè razionalizzare la nostra ospitalità, però cominciamo anche a vedere nuovi turisti, nuovi intendo provenienti da paesi dell'estremo oriente, cominciamo a vedere, adesso io sono a Venezia, vedo cinesi della, certo, Cina popolare. L'offerta, diciamo, le possibilità aumentano e probabilmente, almeno la nostra speranza è che, è vero che siamo spesso critici, ma naturalmente nella speranza, perché poi vediamo molti imprenditori attivi con delle idee, con voglia di fare, voglia di cambiare. Tra l'altro io ringrazio adesso Enrico Finzi, lo ricordo, Enrico Finzi è un sociologo dei consumi, presidente di Astra Ricerche, che è stato con noi questa mattina. Ripartiamo proprio da, tra qualche minuto, da uno di quei luoghi classici, uno dei grandi classici delle vacanze estive. Ci portiamo a Rimini per capire anche come un luogo così forte, diciamo, sulla costa adriatica, sul mercato del turismo, abbia però la capacità, la voglia di sperimentare e reinventarsi. Tutto questo tra qualche minuto. 24 mattino, estate. Una agenzia di qualche momento fa, una scossa di terremoto di magnitudo 2,8 è stata registrata alle 7.42 dalla rete sismica dell'INGV a 7,2 km di profondità, con epicentro nell'area compresa tra i comuni di Cavezzo, Medolla, Mirandola, San Felice. Nel modenese non sono registrati danni, lo ripeto, una scossa di terremoto di magnitudo 2,8. Ieri abbiamo avuto proprio in trasmissione i nostri ospiti, interlocutori del territorio modenese, ma insomma parlavamo di vacanze, di come soprattutto più che mai in queste fasi di crisi sia indispensabile anche investire su se stessi, cambiare, provare a migliorare. Enrico Finzi ci ha ricordato come il Nord-Est sia stato capace di reagire, di andare a conquistarsi dei nuovi turisti. Bene, adesso parliamo di un'esperienza, un progetto che ci porta proprio tra le spiagge più classiche delle nostre vacanze. Con noi Raffaele Villa, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Tecnospiagge, subito Villa, ci racconti di che cos'è una Tecnospiaggia? Ma guardi, una Tecnospiaggia è una spiaggia tecnologica dove si ha la possibilità di avere una pluralità di servizi innovativi, servizi chiamati a valore aggiunto. Ecco, questo progetto nasce un po' dalla volontà dell'amministrazione comunale di Bellaria Giamarina, comune in provincia di Rimini sulla riviera adriatica, e nasce appunto con la volontà di rilanciare un po' quello che è appunto un turismo che sembra essere un po' stagnante, no? In questo scenario di economia ferma, l'amministrazione ha voluto dare quel classico colpo di reni e rilanciare un po' utilizzando che cosa? Utilizzando appunto la tecnologia. E ha scelto di collaborare con la nostra azienda, Unpietronica, appunto per creare un progetto che potesse aumentare il livello di comfort all'interno dello stabilimento balneare, ma aumentarlo in maniera ecosostenibile. E quindi che cosa ha fatto? Ha cercato una soluzione che potesse sfruttare quello che già è una infrastruttura esistente. La nostra azienda, che investe in ricerca ogni anno, ha messo a punto appunto un sistema che sfrutta la rete elettrica esistente e la fa diventare, la trasforma attraverso le onde convogliate in un'infrastruttura dati. E quindi come, a tutti gli effetti è come avere la rete elettrica, una rete internet. Sulla rete elettrica far transitare quindi dei segnali anche ad alta velocità, a larga banda, per portare che cosa? Per portare una serie di servizi. E quindi i classici pali della luce o proiettori che si vedono nella spiaggia, nello stabilimento balneare, ma questo vale anche nella città, ecco, diventano sostanzialmente dei nodi internet di comunicazione. E a questo punto il proiettore, il palo della luce, può erogare una serie di servizi, quindi può connettere per esempio un hotspot wifi e dare connettività gratuita ai bagnanti e ai turisti, oppure può collegare, come è stato fatto anche appunto nello stabilimento di Bellaria, una centrale di controllo e di monitoraggio della qualità dell'aria e capire in real time se il contenuto dei raggi ultravioletti è al di sopra di una soglia non consentita oppure pericolosa, oppure se c'è un contenuto di CO2, quindi controllare quello che è lo stato della qualità dell'aria. Insomma, informazioni varie che vengono gestite attraverso un sistema. Però, per essere chiari, che differenza c'è rispetto a un wifi? Che differenza ho rispetto appunto ad accedere a un wifi, punto e basta? No, la novità è quella di utilizzare appunto senza dover scavare, senza dover stendere delle nuove infrastrutture in fibra, ma utilizzando la rete elettrica esistente, sfruttare appunto questa rete già cablata per applicare quelle che sono appunto delle infrastrutture dati, per esempio come quella del wifi, ma il segnale internet viene veicolato sulla rete elettrica senza dover intervenire con delle opere. Questo è un grande vantaggio, quindi in tempi di ristrettezze economiche come appunto quello attuale, il fatto di poter utilizzare un qualcosa che esiste già e applicare dei sensori e della tecnologia integrandoli, tutti questi sensori in un'unica piattaforma, diventa un grosso valore aggiunto per portare servizi da subito ma in maniera sostenibile. Ecco, la tecnologia si basa su un principio fondamentale, quindi la tecnologia che noi proponiamo è la tecnologia che va a ottimizzare quello che sono i cicli di funzionamento dell'illuminazione. Diventa anche un bel biglietto da visita in tutto questo, in un luogo appunto che per definizione, come Bellaria, come Riminese, è un luogo di transito. Cioè spesso si parla quasi, no, come se il turismo fosse un mercato a sé, ma l'infrastruttura, l'illuminazione, le connessioni sono poi invece proprio quei settori in cui l'investimento tecnologico si trasferisce poi nell'impresa. La vostra attività, l'attività della sua società, è per lo più italiana o orientata all'estero? Ma guardi, noi siamo internazionali, abbiamo appunto sviluppato dei prodotti, delle soluzioni anche brevettate che sono diffuse in tutto il mondo. Lei pensi che abbiamo installato ormai più di 500.000 di pali intelligenti, li chiamiamo, e questi pali appunto diventano dei centri di connessione dati e centri che toccano poi tutta una serie di servizi che vanno dalla sicurezza all'informazione e quindi alla tutela un po' delle persone e anche del territorio. E questo però si basa su un principio fondamentale, che la tecnologia deve però garantire una sostenibilità di tutta questa piattaforma. Come? Con il risparmio energetico e quindi la possibilità di modulare quelli che sono i consumi energetici delle apparecchiature, dei proiettori, dei fari, quindi dell'illuminazione, traendone almeno e sempre un 30% di risparmio. Questo dà il via a un volano che permette di rendere l'investimento ecosostenibile. Ecco Villa, una battuta conclusiva: come hanno reagito i bagnanti, insomma, la spiaggia? I bagnanti hanno reagito in questo modo: da prima sembra invadere lo stabilimento con della tecnologia e quindi andare a dare l'idea che si possa invadere con la tecnologia anche un momento di vacanza. In realtà l'effetto che nel risultato è stato l'esatto opposto. I turisti, i bagnanti hanno apprezzato il totem multimediale, quindi la possibilità di mandare delle cartoline elettroniche ai propri cari, ai propri parenti direttamente dallo stabilimento balneare, oppure la possibilità di leggere con connettività wifi gratuita il giornale, oppure la colonnina di ricarica per mezzi elettrici, quindi collegare la propria bicicletta elettrica che magari l'albergo gli dava e non sapeva dove connettere per essere ricaricata. Insomma, ci hanno preso gusto rapidamente, non ci sorprende. Grazie a Raffaele Villa, che ricordo è responsabile marketing per Umpi, responsabile del progetto Tecnospiaggia. Ecco, un esempio interessante di come nemmeno luoghi così appunto rinomati come Bellaria, Riminese, e forse un po' la forza è sempre stata di questa parte d'Italia di investire, di superare tra mucillagine e altri problemi, investire sul territorio. Adesso ci spostiamo a Milano. Con noi questa mattina è il direttore sviluppo del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, e Giovanni Crupi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Gigi, buongiorno Alessandro, buongiorno agli ascoltatori. Ecco, oggi si parla di tecnologia, la tecnologia è anche quella che si esplora nei musei civici. Crupi, lei ha, come dire, in questi giorni estivi, e ieri è stata la giornata di Ferragosto, il Museo della Scienza e della Tecnica ha offerto davvero la possibilità di una grande esplorazione urbana delle tecnologie, la robotica in primo piano, l'energia. Com'è andata l'apertura nel cuore di Ferragosto di un museo che si dedica alla scienza e alla tecnica? Beh, è stata una bella giornata, abbiamo avuto quasi 1500 visitatori, assolutamente in linea con gli anni scorsi, tanti stranieri ma anche numerose famiglie italiane. Quindi un successo innanzitutto, siete soddisfatti? Questo ci ricorda anche che appunto Spiaggia senz'altro, ma soprattutto in questo anno appunto 2012, un po' così particolare, la riscoperta della città rende sempre più forte l'esigenza di un'offerta. Allora ci dica che cosa è stato apprezzato particolarmente dai visitatori. Sì, in questi anni noi stiamo lavorando affinché il museo rappresenti un luogo dove trascorrere piacevolmente o in maniera interessante e coinvolgente il proprio tempo. La nostra offerta si rinnova, in questo momento abbiamo tra l'altro in esposizione in forma temporanea un esemplare di Enigma, la macchina che permise di criptare i messaggi durante la Seconda Guerra Mondiale, che poi venne decriptata da Alan Turing, matematico inglese. Abbiamo numerose esposizioni interattive, la sezione telecomunicazioni, l'area elicotteri, sono sempre aree che noi facciamo riscoprire ai nostri visitatori, che reinterpretiamo, che rinnoviamo. E poi ci sono le attività di laboratorio. In questi giorni tu parlavi di robotica, in questi giorni progettiamo insieme ai nostri visitatori robot di diversa tipologia per risolvere diversi tipi di problemi. Ad esempio parliamo anche del robot che adesso è sbarcato su Marte. Ecco, parliamo Curiosity. Un momento di Curiosity, prima però rimanendo più con le ruote per terra, sentiamo insieme gli aggiornamenti per chi è in viaggio. 24 mattino, estate. Grazie dunque per gli aggiornamenti sulla viabilità che continueremo a tenere d'occhio, si fa per dire, durante tutto il corso della giornata. Dunque, musei che riescono a raccogliere una forte partecipazione, musei che nel caso del Museo della Scienza, quanto si paga per visitare l'esposizione, Crupi? Allora, il prezzo per un adulto è di 10 euro, ma se un adulto arriva con un bambino paga 7 euro, sia lui che il okay, bambino. Ok, quindi tra i 7 e i 10 euro. Ecco, parlavamo di tecnologia. La tecnologia attrae il pubblico, robotica. In questi giorni lei ha citato appunto Curiosity, il grande letteralmente rover che sta dispiegando la sua attività su Marte, quindi la tecnologia, la tecnica vanno forti anche quest'estate 2012. Sì, noi raccontiamo anche il contemporaneo, per cui siamo un museo che espone oggetti unici nella storia della scienza e della tecnologia anche italiana, ma allo stesso tempo prova a fornire e a creare esperienze anche interattive per pubblici diversi su quello che succede oggi nella scienza. E appunto raccontiamo Curiosity, ma lo facciamo attraverso delle attività in cui i nostri visitatori costruiscono dei robot che provano a risolvere diversi problemi, e poi parliamo anche di Curiosity come funziona la sua operatività. Oggi sulla prima pagina, peraltro, di Panorama c'è una foto devo dire bella, di un robot che il titolo è "Ora anche i robot hanno un'anima". È un settore molto importante sul fronte della tecnologia. Il Museo della Scienza, tra l'altro, ha una vera e propria tradizione tra robot da Asimo ai modelli appunto che arrivavano dal Giappone. Ecco, oggi uno che cosa può fare, in conclusione, arrivando, esplorando, in che modo si può interagire con questa frontiera della tecnologia e della scienza? Al museo, ti intendi? Al museo, assolutamente. Allora, noi oggi parliamo di robot, progettiamo dei robot, parliamo di telecomunicazioni, parliamo di materiali, di sostenibilità, di riuso di oggetti che sono al termine della loro vita utile, parliamo di sistema energetico, parliamo di elettricità e parliamo di matematica. Nello specifico, oggi proprio in questa giornata al museo. E se riesce a farlo con una partecipazione di pubblico. Questo in Italia c'è sempre una certa quasi pudore o freddezza rispetto ai grandi temi di divulgazione scientifica, invece molto popolari nel mondo anglosassone. In realtà anche il nostro è un paese che offre un'offerta formativa, ma anche molto divertente per esplorare questo ambito. Dunque, buona visita al museo a tutti gli ascoltatori e grazie a Giovanni Cruppi per essere stato con noi questa mattina. Allora, da Milano, da Rimini abbiamo fatto Milano e ora invece vogliamo concludere con un luogo che è stato davvero, suo malgrado, così al centro della cronaca quest'anno e che attende anche una risposta tecnologica per risolvere questo problema così grande che è appunto spiaggiato di fronte alla sua costa. Andiamo all'Isola del Giglio, il sindaco Sergio Ortelli, buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Allora, sindaco, prima domanda. Abbiamo fatto un gran parlare nei mesi passati che estate sarà per il Giglio, effetto fuga dal Giglio, piuttosto che effetto curiosità morbosa. Insomma, al 16 di agosto si può cominciare a fare qualche riflessione. Che estate sta vivendo il Giglio sul fronte del turismo, innanzitutto? Beh, intanto ci siamo ripresi una certa normalità, nonostante l'inizio di stagione sia stato un po' in salita, quindi con un po' di crisi, con un freno a mano tirato, che poi finalmente questo movimento del turismo ha avuto ragione di un'isola che chiaramente offre delle particolarità di mare e di paesaggio incredibili, quindi ha vinto il paesaggio rispetto a una brutta vicenda. Si può già fare un primo bilancio, questo agosto è un agosto buono che ridà titolo alla vocazione e all'ospitalità dell'isola, mentre invece su giugno e luglio ci sono stati qualche piccolo problema. In realtà c'è stato, noi consideriamo che tirare le somme a fine stagione possa in qualche maniera ridare fiducia all'economia che inizialmente, ripeto, è stata un po' in crisi. Ecco, il Giglio, per chi non avesse la fortuna di conoscerlo, è davvero un'isola straordinaria. Io personalmente sono innamorato del Giglio, come immagino tanti, ma penso probabilmente come tutti quelli che ci hanno messo piede, magari anche al di fuori della stagione canonica, perché il Giglio è un'isola vicina e nello stesso tempo lontanissima. Lo si avverte magari esplorandola in autunno, nei mesi invernali, insomma un'isola davvero a tutto anno, con questo dramma di fronte a sé e con dei tempi che chiedono chiarimenti. Oggi sul Tirreno, il Tirreno appunto giornale che tra i più diffusi di questa parte d'Italia, si solleva la questione dei tempi. Allora, sindaco, lei viene citato, si parla di rimandata l'intervento sulla Costa Concordia. Allora, qual è lo stato dell'arte per quanto riguarda appunto lo spostamento, il recupero del relitto? Intanto sono tempi questi che abbiamo oggi che erano nella mia mente. In realtà Il mare, le condizioni meteo marine, tutta una serie di condizioni vincono chiaramente la tempistica, però c'è da dire che sul nuovo cronoprogramma gioca molto la presentazione del progetto esecutivo, quindi rispetto a quel progetto licenziato dalla conferenza dei servizi il 15 di maggio, che era un progetto preliminare, per cui si erano abbozzate in modo molto approssimativo le tempistiche, oggi il tempo, la scadenza, il termine di determinate operazioni calza perfettamente con quello che è una progettazione di dettaglio. Che è il febbraio 2013. Sì, direi gennaio 2013 la rotazione della nave, per primavera la nave va via. Io avevo già in mente questi valori, non certo perché ho particolari esperienze, ma perché l'isola, insomma, noi viviamo di mare, il mare ci vincola tutta la nostra vita. Ecco, da questo punto di vista lei sembra sereno. Quando si parla di questo relitto, qualcuno dice quello che ci preoccupa non è tanto lo slittamento dei tempi, anzi questo è proprio il titolo di oggi di questo articolo sul Tirreno, ma è proprio lo slittamento del relitto stesso. Teme questa eventualità? Nella maniera più assoluta, io sono convinto che il relitto è ben ancorato, è la morfologia proprio dell'area che consente questo. Le operazioni in corso tendono a rafforzare l'ancoraggio, quindi la messa in sicurezza. Io sono anche convinto che le due aziende sono tra le migliori in campo internazionale, ho molta fiducia di queste due aziende, ho molta fiducia anche in Costa Crociere, che è un'azienda molto collaborativa. Noi dalla parte pubblica abbiamo un ruolo importante perché dobbiamo vigilare e controllare che le operazioni vengano in qualche maniera eseguite correttamente. C'è l'osservatorio che sta monitorando costantemente tutto questo e l'osservatorio, insomma, dovrà dare poi quanto prima dei risultati alla gestione commissariale, che chiaramente già dal gennaio, 20 gennaio, opera in questo senso. Sindaco, l'effetto un po' abbandono che alcuni, soprattutto dai blog, devo dire, lamentano, cioè prima tutta l'attenzione, noi cronisti, noi giornalisti, sempre al giglio, l'invasione, poi piano piano si entra inevitabilmente in una fase in cui appunto la situazione si stabilizza. Lei ha mai avvertito, avverte il pericolo di essere dimenticati? Devo dire di no, perché già da 7 mesi i riflettori non si sono ancora spenti. Lo stesso Ferragosto è stato un momento per fare il punto della situazione sull'isola del Giglio, non solo come turismo ma anche come operazioni, per cui direi che sono 7 mesi trascorsi con i riflettori altamente accesi e penso che fino a che la nave non verrà rimossa saremo ancora al centro dell'attenzione. E devo dire che la rimozione della nave è un fatto molto importante, perché io lo attribuisco a questo momento una sorta di risorgimento, ci riprenderemo quella normalità che era nostra prima del 13 gennaio, quella normalità che noi auspichiamo venga quanto prima, chiaramente. Ecco, in conclusione, io prima ho fatto un vero e proprio spottone, direi, all'Isola del Giglio, cosa che, ripeto, lo faccio con grande piacere, però penso anche che una parte della bellezza dell'esplorazione fuori stagione del Giglio è la tranquillità, il silenzio. Il Giglio è ancora un'isola dove gli studenti si trasferiscono sulla terraferma, dove in inverno cala un silenzio che un inverno in realtà forse già dall'autunno inoltrato, in cui cala un silenzio che è un po' anche la misura del modo di fare turismo in Italia. Lei crede che da questo disastro del Concordia, da questa estate 2012 si possano trarre delle lezioni per il futuro, oppure si tratta semplicemente di levare la nave e poi tutto riprendere alla normalità? Ma sicuramente l'eco che c'è stato per l'Isola del Giglio la trasformerà in futuro. Ancora non è molto chiaro, non è molto visibile lo scenario per il futuro. Sicuramente lei ha detto una cosa molto importante: le basse stagioni, cioè quei periodi in cui si possiede l'isola, anche noi d'inverno la viviamo in modo molto intenso perché pensiamo di averla nostra, ma nel periodo della primavera, nel periodo dell'autunno la si può fruire in un modo totale. C'è una sentieristica di 51 chilometri, c'è un paesaggio, una fioritura in primavera che è veramente mozzafiato, come so sono mozzafiato i tramonti di ottobre, perché c'è molto, c'è un clima e un tempo adatto, quindi una temperatura adatta, per cui ecco, ci sono a tutto tondo mille possibilità che si possono cogliere chiaramente nell'arco di un anno. Grazie al sindaco Sergio Ortelli, grazie di essere stato con noi, buon lavoro dunque. Grazie. Al sindaco dell'Isola del Giglio, che ci ha, diciamo, portato gli aggiornamenti per quanto riguarda appunto il recupero. Avete sentito, gennaio, febbraio 2013, rotazione, trasferimento della nave, però anche ci ha portato in fondo l'ottimismo dato dalle persone coinvolte, dalle aziende che stanno lavorando su questo relitto, anche magari l'opportunità di una riflessione sull'isola e sul suo futuro. Con questo abbiamo davvero concluso, sono ormai le 8:58 minuti 30 secondi, quindi passo subito la linea a Carmelo Lauricella in regia, poi GR24 e poi naturalmente l'appuntamento del mattino con 9 in punto. Noi ci sentiamo domani.